Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Un detenuto romeno di 37 anni in attesa di giudizio si è tolto la vita impiccandosi in cella con un lenzuolo. Non sono degne di esseri umani le carceri sovraffollate. Nel carcere di Trani, gli agenti della penitenziaria non sono riusciti a salvare la vita ad un altro detenuto trovato morto in cella. Non si deve affidare solo all'amnistia la soluzione o almeno l'alleggerimento del problema di queste carceri che sono troppo affollate. L'uomo non era in condizioni tali da poter sopportare il regime penitenziario. Nel 2011 ci sono stati 183 morti in carcere, di cui 66 suicidi. A fronte di un sovraffollamento che diventa sempre più insostenibile, 68.000 detenuti, quasi 23.000 in più di quanti gli istituti italiani potrebbero ospitarle. Il sindacato di polizia penitenziaria, il più rappresentativo della categoria... A chi interessa tutto questo? Chi sta in carcere? In prima battuta ai parenti di quelli che stanno in carcere e alle persone che se ne occupano come una importante parte della propria esistenza. Questa mattina voglio parlare del problema carcerario in Italia. Ho scritto poco fa in Facebook, parliamo della situazione carceraria, molti mi hanno scritto, ma in che senso, da che punto di vista, che vuoi dire? Sì, perché il carcere è come gli ospedali, forse anche un po' peggio. Normalmente ci si passa davanti e si vede un muro con delle finestre e non si immagina quello che c'è dietro prima di averne un'esperienza diretta. Quando qualcuno ne ha un'esperienza diretta, e parlo del carcere, di solito ne esce abbastanza scioccato. Notate che tutti i personaggi pubblici, politici, gli imprenditori, una volta che stanno dentro e poi escono, dedicano una parte importante del loro tempo e della loro vita a comunicare quella che è la situazione carceraria. Quindi l'essere che normalmente non viene sfiorato l'idea di poter essere incarcerato, una volta conosce quella realtà capisce che c'è qualcosa che in realtà non funziona come dovrebbe. Già in sé l'aspetto della carcerazione è qualcosa che rompe completamente il livello di una vita normale, consueta. Noi viviamo in un paese in cui è facile sentirsi dire che non esista certezza di pena. Ma siamo proprio sicuri che non esista certezza di pena per tutti o soltanto per le persone che hanno possibilità di avviare un potente e poderoso meccanismo di difesa? Beh, di questo oggi parleremo a Melog 800240024. Io dormo al secondo piano e alla notte devo scendere 3 volte la notte per andare al bagno perché ho la prostata, ho 74 anni. Ecco, e scendere, e tante volte siamo anche in 4, uno dorme per terra. La cella è piccolina, non abbiamo, dobbiamo chiedere scusa per girarsi uno con l'altro, siamo ammucchiati, non so come dirlo, come spiegarmi. Troppa gente dentro una sezione, troppa gente per lavarsi, per farsi la doccia, troppa gente per fare i corsi, troppa gente dentro il carcere. E siamo anche un'altra gamma, la tua? Cioè, siamo 6. Questo accade ogni mattina dentro tanti carceri italiani. Ricordo che il nostro è un paese che si è meritato il bollino nero dalla Corte di Strasburgo per essere uno dei paesi che maggiormente viola le convenzioni europee sui diritti dell'uomo proprio riguardo appunto al trattamento in area detentiva. Soltanto la Turchia è peggio di noi dei paesi europei. E immaginate che però accade nei grandi agglomerati carcerari che stanno molte volte nelle periferie delle città, sono isolati, si vedono soltanto se non ci passa davanti o non ci si pensa. Io immagino una città come Roma, le signore fighette escono la mattina con la loro bicicletta, con il cestino dentro, con il cagnolino dentro per andare a comprare i fiori e il giornale della mattina, e accanto a loro, passando per via della Lungara, accade esattamente questa cosa qua. Il mio non è populismo, semplicemente vorrei richiamare l'attenzione su lati oscuri della nostra società. Per farlo chiamo alcune delle persone che a questo hanno dedicato la loro vita, non perché loro in carcere ci sono stati per pene detentive, ma solo perché hanno conosciuto la realtà e hanno pensato che forse è il caso di rendere sensibili anche noi che abbiamo la pretesa, l'illusione probabilmente, non metterci mai piede nel carcere se non, come è accaduto a me, per motivi professionali. Patrizio Gonella e Susanna Maretti, buongiorno. Buongiorno Patrizio, buongiorno Susanna. Buongiorno. Patrizio Gonella, presidente Associazione Antigone, Susanna Marette, coordinatrice nazionale. Sono anche marito e moglie, lo dico così, evito immediatamente fraintendimenti, quindi condividono la loro vita e condividono anche la loro diciamo, attività nelle carceri. L'Associazione Antigone è un'associazione molto antica che si occupa da tanti anni di situazione carceraria, ha ramificazioni in tutta Italia, ha un rapporto privilegiato con il Ministero della Giustizia, hanno possibilità di entrare nelle carceri come potrebbe qualsiasi parlamentare. Patrizio Gonella, parliamo un attimo dell'associazione. Viene da pensare che persone che si occupano della situazione carceraria, non avendone una diretta esperienza, rappresentano un problema che è molto difficile far capire alla maggior parte delle persone. Di ospedali si può parlare molto più facilmente, è più facile incorrere nella malattia. Il carcere si pensa sempre che debba riguardare soltanto le persone che sono ai margini della società. Beh, diciamo che ovviamente non è così, nel senso che bisogna uscire dalla logica dell'immedesimazione, ovviamente, avere uno sguardo lucido ed esterno. Noi ad Antigone cerchiamo di fare questo, per questo dentro Antigone non ci sono, diciamo, le rappresentanze dirette, ci sono operatori della giustizia, ci sono insegnanti, ci sono studenti, c'è gente che vuole dire che la pena deve essere umana e tendente alla risocializzazione, che è l'articolo 27 della Costituzione, il faro del nostro, diciamo, del nostro lavoro di osservazione. Sono 14 anni che andiamo a visitare le carceri, tutte. Ogni anno presentiamo un rapporto, cerchiamo di rompere il muro dell'opacità, perché dentro quell'opacità poi si nascondono le schifezze. È molto difficile questo farlo capire, me ne rendo conto. Abbiamo sentito in copertina il presidente Napolitano che 3 mesi fa ha posto il punto su questa situazione, il presidente della Repubblica. Sappiamo che da gennaio del 2010, quindi sono quasi 3 anni, c'è lo stato d'emergenza in Italia sulla situazione carceraria, ma perché rimane sempre un problema laterale? Perché i carcerati alla fine sono carne da macello, non gliene importa niente a nessuno. Perché non fanno parte della gran massa delle persone, diciamo, che poi costruiscono il consenso pubblico. E quindi sono fuori dalla logica dei sondaggi, anzi sono state vittime della logica dei sondaggi, nel senso che questa crescita della popolazione detenuta, io ricordo che nel 1990 avevamo 1300 omicidi l'anno in Italia e 30.000 detenuti, adesso siamo al 2012, abbiamo 700 omicidi l'anno, di cui un terzo abbondante in famiglia, e abbiamo 67.000 abbondanti detenuti. Sono cambiate molte cose, si è costruita intorno alla criminalizzazione della povertà, alla criminalizzazione del consumo di droghe, alla criminalizzazione dello status di immigrato, le fortune elettorali. Susanna Marietti, vediamo se riusciamo a capire, intanto facciamo tracciare una possibile tipologia media del detenuto italiano. Noi siamo abituati a vedere i personaggi eccellenti, zio Michele di Avetrana, Sabrina e la madre, queste sono le esperienze che abbiamo noi della situazione carceraria. Personaggi che diventano poi figure romanzate perché passano attraverso la macchina del talk show televisivo. Ma in realtà chi c'è dentro le carceri italiane? Guardi, la maggior parte delle persone che vanno a costituire la nostra popolazione detenuta è lì dentro in violazione di 3 leggi. Che sono la normativa sull'immigrazione, quindi sono immigrati che non hanno i documenti, la normativa sulle tossicodipendenze, sì, e quella sulla recidiva, che in qualche modo va a spalmarsi sulle altre due, perché aumenta le pene e allontana i benefici di legge per i recidivi. Ovviamente i recidivi chi sono? È chiaro che non è il grande omicida che ha ammazzato la moglie e probabilmente non la riammazzerà più, no? Ovviamente il recidivo è quello che ha fatto il furtarello per comprarsi la droga di quel giorno, ed è molto più probabile che è tornato in carcere, quando esce, se non trova fuori una società disposta a farsi carico in qualche modo di lui con strumenti appunto sociali, tornerà a fare il medesimo reato, no? E la sua vita si perpetuerà tra dentro e fuori in questo modo. È accettabile il termine incallito, ma è un delinquente incallito, tanto lo spacciatore nordafricano messo dentro, quando riesce fuori continuerà a fare quello. Ma guardi, è un termine che ovviamente non fa parte del mio vocabolario. Io non credo che queste persone siano... Io già mi faccio interprete dell'opinione di quelli che ascoltano. Dicono, ma queste persone se non stanno in carcere cosa possono fare? Io inviterei queste persone, cioè, inviterei metaforicamente, perché so che non lo possono fare per un fatto di normative dello Stato, ma a entrarci in un carcere, perché se non la prima, la seconda volta che ci si entra cambia qualsiasi pregiudizio che uno ha. Pregiudizio nel senso tecnico della parola, un giudizio che viene prima di qualsiasi informazione. Questo è quello che le persone hanno generalmente sul carcere, perché non si ha informazione sul carcere, perché c'è un muro che ci divide dal carcere. E quello che noi tentiamo di fare da oltre 20 anni è esattamente questo, rendere quel muro un pochino più di vetro. Sentiamo qualche ascoltatore. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Sentivo parlare i signori di Antigone e mi ha colpito all'inizio il fatto del carcere, non l'hanno provato. Io sono un colletto bianco ormai in pensione, quasi l'ho provato nell'80 e nell'87, 5 mesi la prima, 5 mesi la seconda, assolto entrambe le volte in istruttoria, ma non è questo il discorso, volevo parlare e da allora faccio il volontario. Il carcere va aiutato. Quindi lei è stato riconosciuto innocente a tutti gli effetti? Sì, ma non voglio mica discutere di questo. No, io, per capire, non è la stessa cosa aver fatto il carcere con una condanna accertata e definitiva e averla fatta da innocente, non è esattamente la stessa cosa. Sono passati tanti anni, faccio il volontario tutt'oggi, il problema maggiore è quello del lavoro, il lavoro in carcere, perché 22 ore in cella stipati come poveretti polli è drammatico. Lei questo ha provato? E poi sì, 20 anche i primi tempi in isolamento, un'ora solo ad aria, ma non voglio fare papioni, il discorso è per chi si può aiutare. C'era una leggina discreta, che era quella della legge Smuraglia, che consentiva gli sgravi fiscali e previdenziali a chi assumeva dei detenuti, e funzionava discretamente bene, soprattutto a Milano, dove c'è sempre stato un provveditore, il dottor Pagano, molto illuminato e aperto. Hanno tolto anche quella. Questi sono gli errori macroscopici. Poi hanno voglia le associazioni, il codice che dice la riabilitazione, il reinserimento nella società. Lei dice non ci sono strumenti, non ci sono strumenti poi per dare un'alternativa al carcere. Fermiamoci, poi sentiremo il nostro ospite. Graziella. Sì, buongiorno. Io desideravo soltanto esprimere un piccolo pensiero che forse sarà in questo momento controcorrente, ma mi chiedevo questo: il carcere dovrebbe esistere come deterrente al solo pensiero di delinquere, quindi, come dire, deve essere ovviamente un'azione punitiva. Quindi deve essere duro e disumano, se no che deterrente? No, mi spiego. Una volta non si parlava in Italia di carceri duri e disumani. È chiaro che adesso, essendo sovraffollati, mi pare di aver letto in qualche statistica che gran percentuale delle carceri è occupata da extracomunitari, e conosciamo il perché, conosciamo le basi. Sì, l'abbiamo detto poco però, fa. Ecco, esatto. Io non ho in mano purtroppo statistiche, quindi per poter parlare così come ne possono parlare ovviamente gli esperti o le persone che se ne sono interessate, però ripeto, è solo un pensiero, cioè il carcere non deve essere neanche quasi comodo, ecco, deve servire secondo me a far riflettere il cosiddetto delinquente a non commettere più un reato che si può non commettere, a parte se la persona... Quindi non lei, è... adesso, per capire, lei quando ha visto quei filmati della prigione modello del serial killer norvegese di Oslo che ha fatto una strage, che aveva la televisione, il lettino tranquillo, ha detto: ma che carcere è questo? Ci mettere la firma per starci. Quindi lei immagina un carcere che abbia, diciamo, un potere deterrente, quindi ci devono essere catene, stridor di denti, cose che facciano paura, se no la gente compie reati. Questa è la sua opinione, che servano come deterrente, ecco. Poi ci a questa ultima ipotesi Patrizio Gonnella, perché questa signora esprime quella che è l'opinione generale. Se il carcere diventa un albergo a 4 stelle, è chiaro che ci va volentieri chiunque. Ma piano piano così si arriva alla pena di morte, quindi bisogna e non ha funzionato neanche quello come deterrente. Quindi bisogna essere cauti nel dire questo. Poi ci sono le leggi di civiltà dei paesi democratici che dicono che la pena non può essere quello, che la pena deve, a parte che costa meno, tenere una persona incatenata, questo lo dico la signora, 22 ore su 24, facciamo come, torniamo alle catene, le chain gang. Si piaga dopo un po', si quella persona quando esce è incazzata nera, signora, e ricommetterà un nuovo crimine e noi dovremo ripagare altri 5 anni di 120 euro al giorno per tenerla incatenata con i poliziotti che la guardano. Una persona che invece è lì, impara a fare un mestiere, capisce che la gentilezza e la legalità paga, capisce che la formazione è una cosa seria, studia. Tutti quelli che studiano non commettono più crimini, tutti quelli che studiano, e la società risparmia. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno, io chiamo da Padova, ho 25 anni, sono figlio di un detenuto qui a Padova, mio papà è dentro per reati finanziari, diciamo. Da quanto tempo è dentro suo papà? È da un anno e mezzo e alla fine appena nel 2020. E, io lo chiamavo per portare due esempi, uno estremamente bello secondo me e uno pessimo. Io comunque adesso mi ritengo un eletto perché mio papà ha avuto la forza di reagire e adesso sta lavorando nel reparto di rassegna stampa e quindi comunque riesce a tenere il tempo impegnato e le cose stanno andando bene, insomma. Però per un periodo ha dovuto passare la realtà dell'OPG a Reggio Emilia e lui è una situazione veramente vergognosa, nel senso che secondo me penso che nel 2012 sia improponibile trattare le persone in quella maniera. Ecco, mi fai qualche esempio? No, nel senso, lì c'erano persone veramente dimenticate da Dio, secondo me. L'OPG, l'ospedale psichiatrico giudiziario, mio papà è stato portato lì perché quando è entrato in carcere è stato preso da forte depressione. Perché per lui la depressione gli era venuta in seguito, diciamo, alla detenzione, alla pena. Sì, perché per lui era una condanna ingiusta. Quindi è entrato in quello che è un quasi manicomio criminale, si direbbe, con, esatto, termini antichi. Sì, assolutamente. E quindi lui, preso da questa depressione, è stato portato in quel posto dove secondo me non è un aiuto quello lì per una persona che deve riprendersi. Siamo stati fortunati perché con la famiglia, la nostra vicinanza e tutto è ripartito, ha ripreso e ce l'abbiamo fatta. Ma questa è una cosa interessante. Scusa un attimo, Susanna Maretti, il problema di molti carcerati è proprio quello che molti sono persone con delle patologie di tipo psichico o psichiatrico. È bello pensare che nella nostra civilizzazione non esistano più luoghi di detenzione per malati psichiatrici, ma in realtà vanno a finire in carcere. Sì, e non tutti ovviamente negli OPG, noi abbiamo solamente 5 ospedali psichiatrici giudiziari in Italia, che sono luoghi che veramente non augurerei a nessuno e che in teoria dovrebbero essere chiusi il prossimo marzo, ma già ci si sta organizzando per non farlo. E quando sono chiusi i detenuti dove vengono messi? Cosa fanno? Ma l'idea è quella, questa riforma dovrebbe creare 20 piccole strutture detentive, una per regione invece che questi 5 grandi baracconi, 20 piccole strutture detentive a vocazione fortemente sanitaria, quindi diciamo con le mura di cinta, perché parliamo sempre di persone sottoposte a custodia penale che hanno commesso un reato, e però all'interno degli ospedali. Ma al momento c'è un presidio di tipo medico-clinico per queste persone o sono detenuti che hanno dei termini di sicurezza più rigidi e basta? C'è un presidio di tipo medico, c'è una doppia direzione custodiale e sanitaria per ogni ospedale psichiatrico giudiziario, ma la parte sanitaria, poi come sempre andiamo a macchia di leopardo, non sono tutti a 5 uguali. Un tempo erano 6, uno siamo riusciti a farlo chiudere perché versava in condizioni drammatiche. La parte sanitaria è totalmente insufficiente. Questo che è napoletano che è chiuso, noi abbiamo trovato persone legate al letto anche per 72 ore. Per aggiustare il bagno ci è voluto 6 giorni di sciopero della fame, se no non l'hanno aggiustato. Per avere un infermiere una notte, io sarò stata 2 ore ad aspettare col campanello suonato. Vengono e che ti danno tachipirina, qualsiasi cosa hai, tachipirina. Se te non ti tagli, non ti cerchi di piccare, non fai qualcosa, qui non risolvi niente. Mercoledì e sabato. Queste sono le docce, se no te la fai in cella quella congelata. Stiamo passando di di un tempo difficilissimo, non ci sono soldi, anche fondi per lavorare. E, diciamo l'80% del carcere, dove ci sono 13-14 sezioni, sono chiuse, essere chiusi 22 ore al giorno. 800-024-0024, stiamo parlando di situazione carceraria in Italia, siamo un paese sott'occhio per le condizioni inumane delle nostre carceri. Il documentario che avete ascoltato si chiama Inside Carceri, è stato realizzato da Next New Media in collaborazione con Antigone, che è l'associazione che si occupa appunto di detenuti, di cui abbiamo i rappresentanti qua in studio. Faccio una piccola postilla: mi risulta difficile capire la continuità di giudizio del pubblico nei miei confronti, non mi voglio assolutamente personalizzare la trasmissione, ma io fino a 3 giorni fa ero un pericoloso criminale perché non avevo pietà per i poveri micini abbandonati e per i padroni di cagnolini pulciosi. Oggi sono uno schifoso buonista perché parlo di delinquenti in carcere e dico che devono avere delle condizioni umane quando lì dovrebbero marcire. Solo questo è il punto che vorrei capire. Vorrei ricordarvi che il 42% delle persone che sono nelle carceri italiane sono persone presunte innocenti, sono in attesa di un giudizio definitivo e la metà di questi poi sono realmente innocenti, quindi potrebbe accadere anche a voi. Roberto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Non è proprio vero quello che ha riassunto, nel senso è un'ipocrisia buonista la sua. Guarda che buonista, posso dire una cosa? Lo considero il più grosso insulto che possa essere fatto. Tutta la vita sono stato considerato uno dei peggiori teste di rapa che possa esistere. Mi dice del buonista, casco dalle nuvole. Mi dica pure la sua. Ok, comunque io non la interpreto in questi termini. Comunque, insomma, ne prendo atto. Il discorso è questo, che appunto è sensazionalista e nei confronti dei cani e dei piccoli cani mici, come dice lei, e poi invece in realtà chi sbaglia, la legge, se è questa, insomma, cambiamo. Ma la legge mica dice che le persone devono essere torturate, dice devono essere private. Ma nessuno le tortura, eh? Beh, no, stiamo dicendo, non so lei che dati ha, ma in carcere nessuno li... Ma lei che dati ha? Lei che dati ha? Io non ho dati. E allora, scusi, lei non ha dati, io parlo con le persone. Lei parla di torture, e quindi... Io considero una tortura stare in un luogo promiscuo, con delle situazioni impossibili di vita, assieme ad altre persone, senza condizioni igieniche, situazioni sanitarie, condizioni di restrizione della propria libertà personale. Sì, a mio avviso appunto allora si mettono in atto i carceri già finiti, che non vanno, insomma, che non vengono utilizzati. Ma stiamo di questo parlando. Ma io mica dico, guardi, appunto, dico io, non ho mica detto che chi viene condannato non debba andare in carcere. Ho detto semplicemente che ci devono essere delle condizioni carcerarie adeguate al nostro livello di civilizzazione, alle leggi vigenti, alle normative che regolano i paesi civili. Solo questo. Mica ho detto che non voglio la gente in carcere. Chi deve andare in carcere è giusto che ci vada. È la nostra maniera per reprimere il crimine. Ho detto che se in Italia le carceri sono in condizioni disumane, bisogna dirlo, semplicemente questo, è buonismo questo, non lo so. No, il buonismo è far uscire la gente prima perché poverino è stato bravo, vedi, quelli che hanno ucciso. Vabbè, ma scusi, ma... Cioè, questo è buonismo, che uno non sbaglia e non si sa mai, sì, ma lei... deve farne tre giorni, no uno perché è stato bravo, poverino. Cioè, si cancella il male per dire bravo, poverino. Ma chi è che dice bravo, poverino? Ma chi dice bravo, poverino? I magistrati? Ma che quali? Fanno uscire la gente. Un esempio? Tutti, novi, non so, insomma, adesso parecchi. E qui si aiuta chi sbaglia e basta. Ma lei sta ragionando, scusi, lo posso dire, sono problemi abbastanza delicati e complessi, non posso essere trattati in maniera così approssimativa. Io sto facendo un grande sforzo per dare elementi di giudizio. Lei sta facendo un discorso da bar, trattando però della vita di esseri umani. Non mi sembra questa sia la strada giusta. Sentiamo Patrizio Gonella, rispetto a quello che ha detto il nostro ascoltatore, che è rappresentativo, ho preso una telefonata, delle decine mi sono arrivate di questo stesso tono. Riportiamolo in termini di numeri e di vostra esperienza. Voi sono decenni, vi occupate di carceri, penso che nessuno vi obblighi a farlo, non credo questa sia un'attività per voi particolarmente remunerativa, lo fate perché siete animati da un principio di giustizia, e per questo oggi state qua. Io non sono buonista, anzi tendo alla crudeltà e al cinismo, quindi figuriamoci se ho pietà per sconsiderata per persone che in realtà dovrebbero stare in carcere, però vorrei sapere come stanno le cose. Neanche io sono buonista, ho fatto il... Sei stato direttore di carcere? Sono stato direttore di carcere, negli anni ero ragazzino, avevo 26 anni, vinco un concorso, vado a Padova, ho fatto il vice direttore di carcere a Padova, poi sono stato a Pisa e diciamo ho visto e leggevo i manuali del diritto, perché sono arrivato lì quando ero laureato in giurisprudenza e volevo applicare la legge. Quindi dico al signore, noi siamo per la legalità, quella stessa legalità che porta le persone in galera e che poi deve dire che queste persone devono stare in condizioni dignitose. Allora, alcuni numeri. Non devono essere picchiate, per esempio, non devono essere torturate. C'è stato un giudice, e dice, non è vero che c'è la tortura, un giudice ad Asti nel gennaio del 2012 ha scritto, in questo caso c'è stata tortura, ma l'Italia non ha mai adeguato il proprio codice penale al diritto internazionale e il reato di tortura non c'è nel codice penale, per cui non le posso punire. Detto questo, alcuni numeri. 52 suicidi dall'inizio dell'anno, ci sono diciamo decine e decine di atti di autolesionismo al giorno, lo dico al signore, gente che si taglia con le lamette, che fa uscire il sangue, che tenta di impiccarsi continuamente, per cosa? Per avere un'aspirina, questo è un girone infernale. Altri numeri, abbiamo il 35% dei detenuti che è tossicodipendente accertato dalla ASL. 35% sono numeri che ci devono far capire che in galera abbiamo mandato tutto quello che non siamo più capaci di occuparci nella società. Susanna Maretti in postilla, altra voce, ci dicono ma di fronte ai pensionati non prendono la pensione, vero, agli esodati che sono esodati, ai disoccupati, vi preoccupate di questo problema? Io me ne preoccupo, perché qua è in gioco qualcosa di molto più importante, se possibile, è la compattezza fisica, è la salute, è il diritto a non essere uccisi e torturati. Ovviamente. Sbaglio, esagero? Assolutamente no, ovviamente ne va dello stesso diritto alla vita ed è qualcosa... Cioè noi stiamo parlando di persone che sono in custodia del nostro Stato, per cui un reato fatto dallo Stato a me come privato cittadino mi riguarda infinitamente di più che l'uccisione della povera Sara Scazzi, per la quale ho un'enorme pietà, ma che ha riempito 2 anni di cronache pomeridiane. Quello è un reato fra privati, ovviamente chi l'ha compiuto deve pagare eccetera, ma non, in qualche modo non riguarda me. Invece quella sentenza dei due ragazzi pestati dai poliziotti, per cui il giudice ha scritto sono stati torturati, mi riguarda molto da vicino, perché lo hanno fatto dei pubblici ufficiali, rappresentanti dello Stato dove io sono cittadina. Detto questo, in carcere... Ma voi che l'avete girate tutte le carceri, risulta che sia applicato lo strumento illecito e improprio della tortura nelle carceri italiane? Ovviamente no, non sempre e neanche preponderantemente, se per tortura intendiamo il pestaggio fisico. Purtroppo ci sono stati esempi, anche uno sarebbe troppo, ci sono procedimenti in corso, vedremo che cosa si dirà. Se io ti metto in cella con due stupratori compulsivi non ti torturo, ma non ti metto in una bella situazione. Questo senz'altro, però qui apriamo un altro fronte, che è quello delle violenze fra detenuti. Io parlavo delle violenze da parte del sì, ma molte volte dico per sentito dire, un sistema coercitivo è dire stai attento che ti tolgo dall'isolamento e ti metto insieme a dei detenuti che non ti fanno certo un servizio piacevole. Beh, diciamo, quello che può accadere è che il sex offender, che così viene chiamato, cioè chi ha commesso reati sessuali, venga menato in carcere, più che e commetta violenza. Vive in sezioni separate. Ci sono delle sezioni all'interno di ogni carcere. No, che parlo, si chiamano parlo anche semplicemente persone che per il semplice fatto che tu vieni da fuori e hai compiuto certi reati potrebbero farti molto male. Non parlo semplicemente di reato sessuale. Esiste una scala gerarchica. Esattamente. Esiste una scala gerarchica criminale dalla, diciamo, un tempo. Cioè, non è che abbiamo signorine che prendono il tè. Ma diciamo, assolutamente no. E ci sono anche atti di vessazione. Ma il compito di chi governa il carcere, io appunto, ecco, ma può essere è di evitare questo, un uso invece deterrente e vessatorio, di dire usare questa sorta di nonnismo all'interno del carcere per punire o per offendere ancora di più alcune persone. Bisogna vedere qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo è punire, vendicarsi, tutto è lecito. Se l'obiettivo è riportare in società una persona che quando esce sa fare un lavoro, non va più a scippare, non si droga più, è ovviamente una stupidaggine. Sentiamo Angelo. Angelo, buongiorno. Buongiorno, io sono una persona che ha vissuto l'esperienza carceraria. Le assicuro che la pena più grave, la pena più pesante che una persona possa subire è la privazione della libertà. Già quella è una pena. Essere privato della libertà è la pena che una persona non augura a nessuno, insomma, ecco. Al momento in cui ci si aggiungono poi altre aggravanti che vengono subite nell'ambito carcerario. E mi faccio un esempio. ad esempio vivere in una stanza a 12 persone senza potersi muovere, dove c'è qualcuno che stabilisce dove devi dormire, c'è qualcuno magari più vecchio che ha reati più pesanti, capisci? A gestire le altre persone, cioè vivi veramente l'incubo. Qual è la cosa che ha più sofferto lei durante la sua detenzione? La solitudine all'inizio, la mancanza di tutto ciò che una vita normale ti permette di avere. È la cosa peggiore che ha visto, anche non necessariamente nei suoi confronti? La cosa peggiore che ho visto è l'incatenamento per portarti in un posto, da un posto all'altro, come se fossi un animale, ma con quattro guardie, con le manette tipo quelli che si mettono con il guinzaglio. Gli schiavettoni. Sì, praticamente manette. Che sono dei morsetti che stringono i polsi. È, una, esatto, è uno strumento, cioè, di coercizione ottocentesco, ma ancora li usano i carabinieri. È questo, con quattro guardie, una persona così indifesa, così frustrata, così ti fanno sentire veramente qualcosa che non auguro mai a nessuno. Quello che ho imparato con in galera è che devi sbagliare e pagare. Io se ho sbagliato pago, quando ho finito voglio fare una vita come gli altri, se è possibile. Zac ha 20 anni, lo incontriamo nella falegnameria del carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. Sta provando a imparare un mestiere perché quando sarà fuori, ci spiega, vuole trovare un lavoro e ricominciare davvero. Di ragazzi come lui la struttura ne ospita 64. Il direttore ci mostra dove studiano, le aule dei laboratori. È un giorno 800240024 chiede un ascoltatore via Facebook di domandare ai miei ospiti, che sono i rappresentanti dell'associazione Antigone che si occupa di carcerati, Patrizio Gonnella, Susanna Marietti, si sono legati a qualche partito, perché dice magari si occupano dei carcerati perché è un serbatoio di voti, si è legati a qualche partito? No, ma i detenuti, diciamo, in Italia non li fa votare nessuno, pur avendone diritto non ci si organizza in modo di farli votare, comunque non siamo, diciamo, legati a nessun partito. No, perché dicono, sai, subito, giustamente, ma la malizia fa parte della necessità di chiarezza in fase elettorale. Abbiamo visto ieri le fantastiche primarie dei magnifici eroi, dice oggi parlate di carcere, evidentemente tirate acqua, e non tiro acqua a nessun mulino, anche perché nessun mulino vi vorrebbe tirare acqua. Lucia Santon, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Lucia Santon è una psicologa, ha lavorato fino allo scorso anno per 4 anni a Rebibbia, nella sezione maschile, nei gruppi di sostegno. Il suo punto di vista? Dunque, il mio punto di vista è che il sistema carcerario, attualmente almeno quello che ho avuto modo di vedere io, soffre di moltissime mancanze che rendono il percorso educativo e riabilitativo estremamente difficile e frammentato, tanto che solo pochi detenuti riescono realmente ad avere accesso a questo. Le mancanze vanno da un livello gestionale, organizzativo, il sovraffollamento, la difficoltà di accedere a cure sanitarie, la scarsa possibilità di accedere ad attività lavorative, la scarsissima possibilità di effettuare un reale percorso di sostegno psicologico e rieducativo. Ma lei come sosteneva? Qual era la sua attività quotidiana? Qual era la sua difficoltà reale, dunque, concreta? La nostra attività consisteva nella conduzione di gruppi di sostegno psicologico ai detenuti, quindi uno spazio dove loro potessero narrare le loro storie di vita, rielaborarle e cercare di rilanciarle in un'ottica differente. Ci stavano i detenuti, erano d'accordo? Come no, lo facevano volentieri. Molti, ce n'erano molti, partecipavano su base volontaria. Ci tengo a sottolineare che noi non facevamo parte dell'equipe di valutazione e trattamento, quindi la loro partecipazione era legata ad una motivazione. Non gliene veniva nulla, non avevano sconti di pena. Non gliene veniva nulla, esattamente. Noi non potevamo fornire loro alcun tipo di beneficio dal punto di vista del percorso carcerario. Il nostro beneficio era... Che tipi di detenuti ha trattato lei? Di tutti i tipi? Cioè anche di assassini, criminali? Sì. Sì, qualsiasi tipo di reato. Abbiamo lavorato nel reparto dei sex offenders, che è una sorta di ghetto dentro al ghetto. Abbiamo lavorato con omicidi, molti tossicodipendenti, quindi per reati di spaccio legati alle sostanze. Qualsiasi tipo di reato. Donato Capece, buongiorno. Donato Capece. Buongiorno a voi e tutti i radioascoltatori. Lei è segretario generale del SAP, che è il sindacato autonomo polizia penitenziario, ex comandante agenti penitenziari di Regina Coeli. Voi siete un po' le persone... Io, della demagogia che si sta facendo sul carcere, di persone che hanno avuto... Demagogia contatti, chi la sta facendo? Scusi, contatti... No, scusi, scusi, no. Di alcuni che ho ascoltato... In che senso? Ma descriva la demagogia in che senso? Cosa si è detto di non vero, demagogico? Strutture, personale, detenuti, maltrattati... Allora. Sono solamente delle grandi cavolate. Non perché, è vero. Perché? È il suo punto di vista. È il mio punto di vista, le dico... Cioè, un idillio, il presidente Napolitano... Il presidente Napolitano tre mesi fa ha detto cose che così se l'ha inventato. Che veniamo al dunque. No, non è che ce la voglio 45 vedere. Anni di attività come poliziotto penitenziario, posso dirle che il carcere è vero, per quello che qualcuno ha detto poc'anzi, il carcere deve privare della libertà e non può privare della dignità coloro che sono ristretti. Su questo siamo d'accordo. Tutti continuano a dire... parlare della sezione sex offender, che è la sezione protetta, che tra l'altro non ha niente a che vedere con tutto il resto del mondo penitenziario. Si parla di maltrattamenti, si parla... Il vero problema... Ma non, scusa, che... non abbiamo detto nei maltrattamenti nella sezione sex offender? No, in generale. Ma no, parli che l'abbiamo detto questa mattina. Quello che le voglio dire è questo. Sappiamo bene, non l'abbiamo denunciato, lo stiamo denunciando, abbiamo apprezzato, continuiamo noi stessi a sollecitare la politica e il Parlamento a far sì che si emettano provvedimenti deflattivi del sistema penitenziario. È una vergogna che in questo paese ci siano oggi 66.942 detenuti rinchiusi in strutture penitenziarie con 45.681 posti effettivamente. Ma no, scusi, sta dando ragione a quello che diciamo. No, aspetta. C'è l'atto dei demagoghi. In questo contesto nessuno mai, voi ha parlato psicologo, ha parlato tutte queste figure che chiaramente operano nel carcere ma vivono in ambienti che non sono quelli delle sezioni detentive, dove ci stiamo noi, H24, ci stiamo noi poliziotti penitenziari, a contatto con i criminali, con i detenuti. Siete reclusi anche voi da un certo punto di vista. Devo dire che nessuno ha mai detto grazie alla polizia penitenziaria per tutto quello che fa, per tutte le vite che quotidianamente salva di detenuti che tentano il suicidio, e soprattutto per dire grazie a questi uomini baschi azzurri, uomini e donne, che tutti i giorni prendono schiaffi, maltrattamenti da parte dei detenuti, specie di quei detenuti extracomunitari che in questo paese, nel rispetto della legge Cossino, non hanno nulla da pretendere e quindi scaricano le loro tensioni sul poliziotto penitenziario. Chi sceglie di fare la guardia carceraria? No, guardi, non è che va a un asilo. Corregga il tiro, perché non si parla di guardie carcerarie, ma la legge 395 del 90 ha chiamato gli agenti di custodia di prima polizia penitenziaria. Vabbè, polizia penitenziaria. Quindi non esiste guardia carceraria. Esiste. Sì. Questo esiste nell'immaginario vostro, forse. Mi spiega, cioè è una questione lessicale la differenza. No, non è questione lessicale, bisogna anche avere rispetto di coloro che svolgono un servizio all'interno degli istituti, che è un servizio. Però lei è molto aggressivo, signore, scusi. No, signore, guardi, io sto parlando con tranquillità. Lei ha iniziato a darci dicendo abbiamo fatto una trasmissione demagogica, estremamente aggressivo, si irrita in maniera esagerata, non stiamo mica facendo il processo a nessuno, le davo possibilità di parlare, abbiamo portato dei dati oggettivi, abbiamo parlato di punti di vista di osservatori anche oltre il nostro paese. Lei ne porta una questione emotiva dicendo le dico grazie per quello che potete fare di buono, ma non apprezzo molto questa sua aggressività, lo dico sinceramente, non perché sia buonista. Vediamo se la conclusione può farcela Susanna Marietti. C'è una... Noi appunto, come dici, abbiamo parlato di dati di fatto e di sentenze, tra l'altro anche per rispondere al segretario Capece, c'è una relazione della Corte dei Conti di poche settimane fa che dice che gli agenti di polizia penitenziaria sarebbero anche in numero sufficiente, non sono, molti stanno negli uffici, non sono troppo ben organizzati e quindi nelle sezioni non ci stanno poi tanto. Mi sembra che il problema sia senz'altro ancora da approfondire maggiormente. Torneremo sulla questione carcere. Grazie ai nostri ospiti, tutti compresi.